A Rock FM sono le 7 e 30 minuti primi. Problemi? If you have a problem, if no one else can help, and if you can find them, maybe you can hire. Arriviamo dritto fino alle 9. Se volete restare in nostra compagnia, vi scalderemo in questo lunedì 17 di dicembre. A proposito di problemi, ecco. Per il nato amore per la Radio Verità, che da sempre contraddistingue le nostre trasmissioni, devo confessarvi che nei nostri studi, soprattutto negli occhi di Spadino, il nostro tecnico, c'è sottile preoccupazione. Te la leggo negli occhi, Spadino. La sottile preoccupazione è data da un rumore che fuoriesce da una macchina, da un macchinario. Essendo una radio, potete immaginarlo il nostro studio con dei macchinari, no? È facile da pensarlo. Questo macchinario fa il classico rumore che anche per un tecnico come Spadino si può capire che il macchinario sta dicendo c'è qualcosa che non va, ok? Visto che noi non sapevamo cosa potesse essere questo macchinario, lo abbiamo chiesto a Garavelli. Marco, scusa, ma quel macchinario lì è roba importante o no? Eh sì, è il ponte radio, ha detto. Quindi non so, Spadino, se si riesce a farlo sentire. Prova, sposta il microfono. Adesso lo sta facendo poco. Comunque il rumore è tipo... Dovesse succedere qualcosa, può essere il macchinario che fa... La puntata è dedicata a tutti quelli che lavorano con dei macchinari che fanno... Fortuna che c'è la musica, via! Il Duca Bianco. Bella, bella questa canzone. Changes. Changes. Quella lì. Yeah. Ton ton ton do. Yeah. Still don't know what I was waiting for. And my time was running wild. A million dead end streets and every time I thought I got it made, it seemed the taste was not so sweet. So I turned myself to face me. But I've never caught a glimpse of how the others must see the faker. I'm much too fast to take that test. Change, turn and face the strain. Change, yes. Wanna be a richer man? Changes. Turn and face the strain. Changes. It's gonna have to be a different man. Now may change me, but I can't trace down. Oh yeah. Size, but never leave the stream of warm and permanent sand. So the days float through my eyes, but still the days seem the same. And these children that you spit on as they try to change their worlds are immune to your consultations. They're quite aware of what they're going through. Change, turn and face the strain. Change, don't tell them to grow up out of it. Change, turn and face the strain. Change, where's the shame you've left us up to her next to it? Now make things. You can't twist time. Strain. Changes. That time may change me, but I can't David Bowie. 7:35 minuti primi dall'Ariele. Buon Natale però rock. Questo è il grido di queste due settimane che contraddistingueranno pane, burro e rock and roll. Attendiamo al 335-100-7777 le vostre problematiche natalizie legate a luci, parenti, regali, Babbo Natale appesi agli alberi, ai balconi, musichine che vi tirano di matto. Attendiamo il tutto al nostro numero di SMS, mentre cedo la linea ancora al collegamento col Duse Giant Center, centro commerciale che sponsorizza queste due settimane natalizie di pane, burro e rock and roll, e con lo speciale Roberto Fricantoni e l'Ariele, precari del rock and roll, arrotondano lo stipendio di dicembre. Come, vi chiederete voi? Beh, facendo il presepe vivente. Il centro commerciale Duse Giant Center vi ricorda che nel reparto bimbi potrete visitare l'inimitabile presepe vivente. Accorrete numerosi. Oi Frick, illumina più in qui che sono fuori campo, se no... Ariel, mi fa male la schiena e non sento più le braccia. Te, ma non sei contento che non facciamo più l'asino e il bue? Ariel, siamo una balla di fieno e un lampione. Che poi cosa c'entra un lampione nel presepe, me lo debbono spiegare. Beh dai, a me non spiace fare la balla di fieno, è solo che questa paglia gialla mi gratta ogni tanto. Mannaggia la paglia. E tu Frick, ti ho detto fammi più luce, sennò non mi si vede, dai. Ariel, ti ho risposto, se ricordi bene, che non sento più le braccia. Comunque, così va bene? Oh, vedi che non era difficile, oh. Aspetta, spegni. Leva la luce, spostati. Perché? Ma mi hai fatto appena spostare. Uè, nel presepe vivente si sta immobili, fermi. Cosa c'hai che ti nascondi? Ariel? Ariel, sei tu là sotto il fieno? Oh mio Dio! Ariel! Non lavoravi in radio! Oh, non ci credo! Ma questa la devo raccontare! Scusi, signorina, ma non può parlare con il presepe vivente. Oh, sì, mi scusi. Ariel, ma la conoscevi? Scrive su Rocker Horror Picture Show. Mi ha intervistato ieri. E non è ancora uscita l'intervista, eh? Immagino già il titolo. Ariel, dalle stelle alle stalle. Ah. E beh, che c'è? About it. Ain't no real big secret, all the same, somehow. Refugees, Tom Petty and the Heartbreakers. 7:41 i minuti primi della puntata 147 di Pane, Burro e Rock and Roll, la colazione di Rock FM. Benvenuti sulle nostre frequenze e benvenute. Commentavo nella prima mezz'ora quanto ci piaccia lo stereotipo di provincia. Controbatte il nostro ormai celebre fungo da Imola, meglio conosciuto anche fungo come fungo bassista dei Vicolo Inferno. Saluto lui e saluto tutta la Imola che conta, sintonizzata sulle frequenze di Rock FM. Lui commenta: altro che programma provinciale, è una settimana che la gente mi chiede se sono quello del presepe. Questo è quello che accade agli inviati, ai radioascoltatori che si trasformano in inviati di Pane, Burro e Rock and Roll. È il peso della celebrità, caro fungo. Sarei curioso di sapere cosa rispondi tu. Sì, sono quello che la mamma gli ha costruito il presepe sulla testata, sì. Non è male. Un abbraccio anche a un'amica di Firenze che chiede come sono, curiosa, chiede come sono le luminarie di Gallarate, la mia città natale. Devo confessarti che la sto vedendo parecchio poco in questi giorni di duro lavoro a Rock FM. Più che altro intravedo la mia città in quei 10 minuti, da quando accendo la macchina al mattino a quando esco. In realtà in questi giorni fa talmente freddo che ho il vetro con sopra il ghiaccio, quindi in quei 10 minuti io sbrino solitamente solo un quadratino e guido con un occhio solo dentro il quadratino, oppure con la faccia fuori dal finestrino, quindi non sono ancora riuscito ad apprezzare appieno le luminarie della mia città natale. Certamente sono in grado di apprezzare appieno il brano che sta facendo partire il nostro mitico spadino, Ladies and Gentlemen, The Beatles, Sgt. Pepper's Lonely Heart Club Band. Yeah! Grazie, non dovete. Sgt. Pepper's Lonely Heart Club Band. No, non sono per me gli applausi, erano per i Beatles. Beatles che, non dimentichiamocelo, ci stanno aiutando in queste 2 settimane dicembrine di Pane, Burro e Rock and Roll con questi frammenti tratti dai Christmas Records. Il ringraziamento sempre a Mr. Pinguino, che ha battuto, sappiatelo, la redazione di Pane, Burro e Rock and Roll alla distanza per averci messo in contatto con questo prezioso materiale. È da lunedì scorso che ogni giorno mandiamo 4 interventi, quindi in realtà sono tantissimi perché ogni giorno ve li mandiamo differenti, dove i 4 Beatles in tempi d'oro auguravano buon Natale a loro maniera un po' folle, visionaria e quant'altro, ai fan sparsi in tutto il mondo. A questo proposito abbiamo un frammentino, una musichetta cantata dai Beatles per augurarvi buon Natale. This is to wish you a merry, merry Christmas. This is to wish you a happy new year. In esclusiva per PBR. Nothing but some feelings that this old dog kicked up. It's been raining since you left me. Now I'm drowning in the flood. You see, I've always been a fighter, but without you, I give up. Now I can't sing a love song like the way it's meant to be. Well, I guess I'm not. Mi faccia un regalo, maestro, me lo faccia un regalo, la prego. E non sto pensando al 50 euro che spunta dal suo taschino, sto pensando ai compleanni del giorno. Ah, che delizia, che delizia, glielo faccio volentieri questo regalo. Però volesse darmi anche il cinquantino, lo prendo volentieri, sa? D'accordo, glielo darò senz'altro, anche perché si tratta di un falso. È la carta moneta venuta peggio della tiratura di ieri sera. È quella che sul retro ha la pubblicità del centro commerciale. Infatti, gliela volevo rifilare in cambio di un bel cambio, se avesse 20-30 euro. Ne parliamo più tardi, era il 17 dicembre del 1956. Ah, il 17 dicembre. Nasceva sa chi? Me lo dica, per favore. Peter Farrelly. Ah, il famoso regista, sceneggiatore e scrittore statunitense. Sì. Quello di Tutti pazzi. No, Freak, la prego. Tutti pazzi per Mary. L'ho tutti detto io. Tutti pazzi per Jerry. No, sì. Evviva, e soprattutto scemo e più... più scemo. Scemissimo. L'ha visto Scemo più scemo? Uguale lei, scemissimo. Lei che è un maestro del demenziale, ha apprezzato questa pellicola diverse o no? Diverse volte l'ho visto e posso dire di essermi trovato bene. Mi sono anche compagnia. Riconosciuto. 1959 nasceva il bassista americano dei REM, ovvero Mike Mills. Mike Mills. Allora, lo sapeva? Ma certamente, così come so l'acronimo REM, che già sbagliai una volta. Sì, vediamo se lo azzecca. Remote Eyes Movement. Ed è? E invece è Rapid Eyes Movement. Ha visto che grazie a Isacco Rizzi che ci parla Isacco dall'altra parte del vetro. Bravo! Evviva il nostro regista! Chiudiamo in bellezza! 1966 nasceva Selene, indimenticata pornodiva italiana, che poi, e ributtiamo l'occhio a Isacco Rizzi, abbandonò la carriera da pornodiva, o ricordiamo male? Si è mai pentita? Non faccia finta di non saperlo, Isacco Lei Rizzi. Che ha tutta la collezione completa di Selene. Ha partecipato a un reality dicendo non sono più una pornodiva, è vero? E allora l'appello straziante dai microfoni di Rock FM fino alle orecchie e non solo di Selene, torna sui tuoi passi! Ultima ora, apprendiamo con cordoglio che la ex pornostar italiana Selene sì. si è fatta suora. No, potrebbe essere interessante però, eh? Sempre più perverso, ho visto che le si accendeva l'occhio! E non solo. Shock this one. Sono i Cult, non sono gli Stones. Love Removal Machine. No, si capisce che non sono gli Stones quando canta. Il riffone di chitarra è lec è lì, come si dice dalle mie parti. Chiusura punk rock per loro. 7:58 minuti primi. Noi ci prendiamo una pausa brevissima e andiamo a iniziare con la terza parte di Pane, Burro e Rock and Roll. Ho deciso di chiamarle quattro parti, ho deciso di dividerle in quattro, Pane, Burro e Rock and Roll. Mi sembra una buona idea? Quattro mezz'ore, quattro parti. È abbastanza semplice, no? Sì. Vabbè, prenderemo provvedimenti. Restate con noi! Non mollate! Oh, Lombroso con Rock FM. Pane, burro e marmellata, inizia la giornata, ma se ci aggiungi rock and roll, diventa una figata.